strano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Ricordo che Settola ha parlato del fatto che cercava di procurarsi dell'esplosivo con un detonatore, con telecomando. Non mi ha spiegato cosa voleva farci, ma diceva che era un modo facile per uccidere. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella, e le parole che vi ho letto sono quelle di Carmine Schiavone, il pentito sentito dall'antimafia di Napoli, che ha rivelato un piano per uccidere Saviano. Sì, questa è la notizia, l'avete già sentita sul GR, è una notizia che fa impressione, perché quando abbiamo letto, quando è stato letto il libro di Saviano Gomorra, o quando è stato visto il film, tutti si interrogavano su questo fatto. Ma e Saviano come farà a sopravvivere alle minacce della Camorra? Adesso è arrivata la minaccia ed è operativa. Il piano della Camorra per uccidere Roberto Saviano sarebbe entrato nella fase operativa, si legge sul Corriere della Sera. Deciso all'unanimità dalle famiglie che aderiscono al cartello dei Casalesi, e addirittura fissato con una scadenza a breve termine. Entro Natale i clan vogliono ammazzare l'autore di Gomorra e, se necessario, anche i carabinieri che gli fanno da scorta. Contano di farlo con un attentato spettacolare sull'autostrada Roma-Napoli, durante uno dei frequenti spostamenti dello scrittore e degli uomini che lo proteggono. Quindi, proprio addirittura, secondo questa ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, ci sarebbero già le tecniche operative simili a quelle con le quali è stato ucciso Giovanni Falcone. E appunto, una cosa spettacolare, un attentato spettacolare sull'autostrada Roma-Napoli. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera, che assieme alla Repubblica è l'unico quotidiano ad avere questa notizia. Si legge ancora, andiamo a vedere l'informativa giunta ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Napoli, nasce da una confidenza appunto del pentito Carmine Schiavone. Vedo che il Corriere della Sera è riuscito quindi ad avere anche il nome del pentito, cugino e omonimo del boss soprannominato Sandokan, il capo dei capi dei Casalesi, riconosciuto come tale anche ora che è detenuto e condannato all'ergastolo. Schiavone ha cominciato a collaborare con i magistrati dal 1993 e al processo Spartacus, il più importante contro le cosche del Casertano, conclusosi in appello nello scorso giugno. La sua deposizione si è sviluppata per 49 udienze. Questo il Corriere della Sera, ma come vi dicevo anche il quotidiano La Repubblica ha la notizia della minaccia dei Casalesi: morirà entro dicembre con la scorta. Questo è il titolo che leggiamo dentro il quotidiano. E poi fa una certa impressione, insomma, perché in un quadro, e lo scrittore racconta: vivo con i carabinieri, mi chiamano capitano, i 2 anni sono sotto scorta di Saviano sono come i 100 del Buenda di Garcia Marquez, vissuti nella solitudine, notte e giorno con i carabinieri accanto, le uscite sotto scorta, ogni passo blindato. È la vita che cambia dopo aver raccontato al mondo che cos'è Gomorra. Da 2 anni così, si legge sulla Repubblica, 1.200.000 copie fa, Roberto Saviano era un ragazzo convinto che ne valesse la pena. Ora, con un film tratto dal suo bestseller, che è in corsa per l'Oscar, la domanda se la pone: lo rifarei? So di aver fatto una cosa importante, ma non c'è mattina in cui non mi chiedo perché l'ho fatto, e non mi so rispondere, non so se ne valeva la pena. Mi lacera il sacrificio di un affetto importante, ma sono i lettori che hanno messo paura ai poteri criminali, non io. I suoi giorni sotto pressione e protezione per la minaccia della Camorra, il clan dei Casalesi, su cui il suo libro ha acceso l'interesse mediatico mondiale, li ha raccontati ieri in radio ai microfoni di Fahrenheit, la trasmissione di Radio 3, che è appuntamento fisso per gli amanti della lettura. Saviano ha raccontato di sentirsi isolato dal mondo e dalla sua terra, di essere costretto a cambiare spesso casa, di aver perso amicizie e legami. All'inizio sembra che non ce la puoi fare, quando il tuo quotidiano viene stravolto e capisci che puoi solo peggiorare, perché vivi nel sospetto, nella mancanza di fiducia, mentre le persone attorno spariscono, anche le più care. Anche da parte di quelli che mi erano vicini c'era una sorta di rimprovero, come se dicessero: ci siamo presi degli schiaffi in faccia per te, per difendere uno spettro. E lo spettro Saviano, sì, questo quindi dopo le notizie che appunto dicono della minaccia di ucciderlo. Il Corriere della Sera tiene in prima pagina naturalmente anche altre cose, soprattutto la notizia economica più importante: balzo record delle borse, più 11%, rialzo storico a Wall Street, vola anche Milano, via alle misure italiane. E il piano anticrisi della UE fa volare le borse, che segnano un balzo record. Berlusconi ricevuto da Bush: coordineremo gli interventi, difenderemo l'economia reale. Il governo italiano approva il decreto per la stabilità dei mercati. Lo sapete già, questa è la notizia, diciamo, più importante, che ha dato un minimo, un po' di respiro alle borse, anzi comunque le ha fatte rimbalzare verso l'alto molto fortemente. C'è anche una foto di prima pagina, appunto, di un sorridente Silvio Berlusconi accanto a George Bush e a sua consorte Laura Bush, Silvio Berlusconi e il presidente americano alla Casa Bianca. Torneremo anche sull'altra notizia del giorno: il Nobel a Krugman, l'economista anti-Bush che ha previsto la crisi. È Massimo Gaggi che ne parla sul Corriere della Sera. Ora, sempre rimanendo però sul piano dell'economia, vorrei ricordarvi il Sole 24 Ore, borse il giorno della fiducia, Wall Street più 11%, ed è Carlo Bastasin che parla della rivincita realistica della politica. Sì, Carlo Bastasin nel suo editoriale dice: i poteri pubblici coordinati sembrano però in grado di governare in mare aperto dell'economia globale senza modificare la cornice del modello europeo. Ecco, vi voglio ricordare tra altre cose che Carlo Bastasin sarà proprio l'ospite della trasmissione diretta dal nostro direttore Fabi dalle 8.30 alle 9 nella rubrica Dietro la Notizia, e sarà proprio lui che ci parlerà della crisi finanziaria e di come uscirne, di come interpretare questi segnali nuovi. Ecco, il Sole 24 Ore si occupa anche delle risposte sulla crisi. È importante perché tre guide al giorno, i risparmi, le imprese e le regole dei conti. Sì, abbiamo una specie di inserto: guida per le imprese, turbolenze finanziarie, PIL debole fino al 2010, le regole di Basilea troppo rigide per le PMI, e ancora il fair value trova la deroga, banche, bond anti-crack alla prova dei mercati. Cioè abbiamo un inserto dentro al Sole sostanzialmente di 3-4 pagine che è un servizio per le imprese grandi e piccole di risposta alla crisi. Ricetta Fini per l'integrazione, una conquista alla Balotelli. Sì, è il quotidiano Il Giornale che dà ampio spazio al presidente della Camera, nonché esponente di spicca della destra italiana, che però in questo caso, come dire, fa una riflessione profonda sulla necessità di integrazione da parte dell'Italia. È fondamentale, dice Fini, la condivisione di valori e obiettivi comuni. Punto di partenza: l'integrazione è una conquista, non una menomazione. In linea, per capirci, con la generazione Balotelli. Un esempio da seguire è quello portato avanti dall'attaccante dell'Inter ghanese d'origine, nero come la pece, inseritosi pienamente nella nostra società. Tanto da vestire, ricorda Gianfranco Fini, anche la maglia dell'Under 21. Detto questo, l'Italia deve porsi l'obiettivo di tracciare una via innovativa, anticipatrice, che si ottiene, e si legge in questo servizio di Vincenzo Lamanna sul Giornale, combattendo la tendenza all'isolamento da parte delle minoranze di stranieri, così come impedendo il prodursi di razzismo e xenofobia, fenomeni che da noi, dice Fini, tendono purtroppo ad aumentare per effetto di paura, ignoranza, degrado. Ecco, il Presidente della Camera espone a chiare lettere la ricetta per bandire ogni discriminazione, puntare invece alla realizzazione dell'eguaglianza e dei diritti umani. Non a caso, in modo papale, riconosce verso i datori di lavoro c'è stato un po' di accondiscendenza. Ecco, e vediamo ancora a tal proposito, proprio su questo punto, dice la conquista da parte nostra, dice Fini, di una identità nazionale nuova che sia evoluta ed aperta. Per questo bisogna far leva pure su questa identità mediterranea, che dà al nostro paese un patrimonio privilegiato di universalità di valori. Queste le parole che faranno, credo, discutere, perché è davvero una riflessione in profondità. A tal proposito Fini invoca la tutela dei diritti umani, unita alla lotta allo sfruttamento e al lavoro nero, e ne approfitta per denunciare: forse c'è stata troppa condiscendenza verso alcuni datori di lavoro che in determinati casi si sono rivelati come autentici sfruttatori. Il ragionamento è questo di Fini: così come è immorale e illegale sfruttare un connazionale, allo stesso modo lo è sfruttare una persona che arriva nel nostro paese per bisogno. Per la terza carica dello Stato, inoltre, l'analisi del fenomeno migratorio non può basarsi su parametri validi ancora 10 o 15 anni fa, e guai a perdere di vista l'importanza dei ricongiungimenti familiari. Non a caso Fini ricorda le analogie con milioni di famiglie italiane che nel secolo scorso hanno visto il padre allontanarsi per cercare un lavoro finché non arrivava la sospirata telefonata dalla Germania piuttosto che dal Sud America. In definitiva, avverte Fini, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la nostra paura. Beh, è un ragionamento davvero, come dire, in profondità. Sul quotidiano Il Giornale, poi, io voglio segnalarvi una cosa che vedo solo qui. Gianmarco Chiocci intervista Ottaviano Del Turco. Del Turco torna libero: chi mi accusa lo fa per evitare la galera. Presidente Ottaviano Del Turco, il Tribunale del Riesame ha tolto la tolta dagli arresti, niente più domiciliari ma solo obbligo di dimora a Collelongo, il suo paese, l'hanno spedita al confino. Un dolcissimo confino, risponde Del Turco, qui è un paradiso. Vi voglio ricordare che Del Turco era stato arrestato e accusato, coinvolto nella lo scandalo nella regione Abruzzo sulla sanità. Un dolcissimo confino, dice Ottaviano Del Turco, qui è un paradiso, mi godo la libertà ritrovata, una passeggiata in montagna, le visite a casa di amici che telefonano, anche quelli che non si erano fatti mai vivi durante la detenzione, va bene così. Per i giudici lei potrebbe ancora reiterare i reati, follia. E come potrei farlo, visto che non ho più incarichi istituzionali? Che idea si è fatto di questa discutibile inchiesta sulla sanità privata che ha decapitato la giunta abruzzese? Ai magistrati ho dato una spiegazione in tempi non sospetti. Ho detto loro che era in corso una battaglia tra un'idea riformatrice della politica regionale e un vecchio modo di concepire la politica. I miei tagli sulla sanità privata hanno scatenato i poteri forti. Ecco i risultati. Vincenzo Angelini, l'imprenditore pentito che accusa lei e i suoi uomini di aver intascato mazzette milionari, è il braccio armato di questi poteri? Storicamente questo signore è stato un pezzo importante dell'immenso potere della sanità privata abruzzese. Non vi dimenticate che incassava una quantità di soldi spropositata fino a quando anche a lui abbiamo detto basta. E questo, insomma, dice, a suo avviso Angelini ha collaborato con la procura di Pescara per evitare una galera certa? Certo che è così, per coprire i buchi della sua azienda e non andare in carcere per falsa bancarotta. Si è inventato a tavolino questo meccanismo infernale. Io capisco che di fronte a accuse così la procura non poteva non indagare, ma poi si sarebbe dovuta arrendere di fronte all'evidenza. Non c'è una prova, non hanno trovato un riscontro a mio carico. La sua parola e basta. Questo dice Ottaviano Del Turco in questa come dire, bella intervista che c'è sul giornale, sul quotidiano Il Giornale. Il Giornale poi ironizza anche con il Partito Democratico: il PD compie un anno e gli fanno la festa, compleanno amaro per il partito di Beltroni dopo una stagione di sconfitte, litigi e crisi di identità. Sì, questo. E poi un virgolettato di Silvio Berlusconi: caro George, entrerai nella storia. E il destinatario di questa frase è George W. Bush. Questo preso dal Giornale, poi Il Giornale, come tutti i quotidiani, apre: e adesso giù prezzi e tasse. Ma a proposito di economia e a proposito di notizie che riguardano anche lateralmente l'economia, voglio ricordarvi che il premio, il Nobel a Paul Krugman, qui parla il neo premio Nobel ed è il quotidiano La Stampa che riesce a intervistarlo, Francesco Semprini da New York. I segnali inviati da Parigi rappresentano, dice Krugman, un passo importante nella giusta direzione. È positivo il giudizio sui lavori dell'Eurogruppo del neo premio Nobel per l'economia Paul Robin Krugman, professore di Princeton editorialista del New York Times. Le autorità europee hanno fatto abbastanza per fermare la crisi, gli chiede l'intervistatore. Non era stato fatto abbastanza sino alla scorsa settimana. Tuttavia le decisioni del vertice Parigi di ieri hanno superato le mie attese, sia in termini di dimensioni, sia per il coordinamento. Quindi ci sono elementi per pensare in positivo. Sono decisamente più ottimista, dice il neo premio Nobel, adesso di quanto lo era venerdì. Ovviamente nessuno può sapere cosa accadrà domani, ma anche dai mercati finanziari è arrivata una risposta positiva, quindi tutto ci lascia presupporre che la fiducia sia maggiore oggi rispetto a pochi giorni fa. Il sistema delle garanzie era necessario, vuol dire che ciò che è stato fatto prima non ha aiutato. Grandi iniezioni di capitali nel sistema finanziario aiutano a garantire agli istituti interbancari di mantenere sotto controllo il mercato. Gli stimoli fiscali possono aiutare, ma c'è bisogno di procedere con provvedimenti più seri per aggredire la crisi in atto. Ecco, questo è Paul Krugman, che vi voglio ricordare, considerato, diciamo, dal punto di vista del suo pensiero l'anti-Bush, nel senso che si dice anche che Krugman abbia non solo vabbè spiegato il mercato globale, ma abbia anche previsto quella che poteva essere la crisi dei subprime e poi la crisi finanziaria che si è abbattuta sulle banche statunitensi in primo luogo. Tra le altre cose c'è anche un botta e risposta sulla stampa tra Berlusconi e Bush. Berlusconi dice: George, la verità è che la crisi è iniziata da voi, è colpa vostra. Bush dice: sì, lo sappiamo, la responsabilità è dell'ingordigia di molti manager che non hanno a cuore la nazione. Beh, questa frase di Bush naturalmente non troverà l'accordo dei manager, perché diranno che invece, anzi dicono che è colpa della politica economica del governo di Washington. Berlusconi prosegue: l'economia reale è solida, evitiamo che risenta della crisi, di certo non farò politiche socialiste. Bush replica: hai ragione, anch'io non passerò alla storia come un presidente socialista. Questo è uno stralcio di dialogo tra Berlusconi e Bush sul quotidiano La Stampa. Ora volevo a questo punto tornare un attimo al Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera affida a Michele Salvati alcune previsioni sulla crisi. Se da questa crisi finanziaria, scrive l'economista Salvati, usciremo in tempi ragionevoli e con danni limitati, è un esito possibile, forse il più probabile nonostante la gravità della situazione, quale sarà il modello di capitalismo nel quale entreremo dopo la crisi? Circolano in questi giorni le previsioni più estreme, nuove Bretton Woods, vincoli alla libera circolazione dei capitali, riregolazioni incisive dei singoli capitalismi nazionali. Insomma, un modello di capitalismo radicalmente diverso. Per quel che vale, è una previsione, non un auspicio, la mia è più cauta. Il modello in cui ci ritroveremo a vivere dopo la fase acuta della crisi non sarà molto diverso da quello che è prevalso in quest'ultimo quarto di secolo, un modello neoliberale, come alcuni lo chiamano. Nella sua forma più estrema si tratta di un modello nel quale i capitali sono liberi di cercare i massimi rendimenti scorazzando per il mondo intero, i mercati e i prodotti dei fattori sono deregolati quanto è possibile, le imprese si fanno una concorrenza intensa e i grandi investitori istituzionali premiano quelli che garantiscono nel breve periodo il massimo valore per gli azionisti. Le banche e le istituzioni legali e finanziarie assecondano questa creazione di valore, chiamiamola così, con strumenti sempre più sofisticati. I grandi manager sono pagati come calciatori e stelle del cinema. Beh, insomma, lo scenario che ci presenta Michele Salvati non è diverso, molto diverso da quello che ha portato poi alla crisi attuale, perché da quello che si capisce fanno la politica come sempre legata a filo doppio all'economia, da cui si ricava risorse per campagne elettorali sempre più costose, e non si sogna certo di contrastare il modello prevalente finché le cose vanno bene. Insomma, è il modello quello che Robert Rake descrive nel suo recente supercapitalismo. Ecco, questo è quanto leggiamo sul Corriere della Sera a proposito delle previsioni da fare, che sono, secondo Michele Salvati, molto caute, ma che insomma ci danno uno scenario molto simile a quello attuale. Un passo avanti, così il quotidiano Libero, scossa in borsa, il rimbalzo dei valori sui mercati ha prodotto una ventata di speranza, ci si domanda se siamo davvero all'inizio della ripresa. Oggi la prima verifica, e sì, questo è il titolo di apertura del quotidiano Libero, ed è Vittorio Feltri, il direttore, che scrive: non credo che il cittadino comune sia sempre appassionato di quotazioni borsistiche ed esulti quando apprende dai mass media l'avvenuto rimbalzo della maggioranza dei titoli. Di solito rimane indifferente, non essendosi mai avventurato in piazza affari per investire i propri risparmi, ammesso ne abbia. Ma in questa circostanza anche la mentalità degli estranei alla finanza è cambiata. Dopo giorni e giorni troppi di notizie ferali sulla crisi dei mercati, di ipotesi catastrofiche sul futuro della nostra economia, articoli menagramanti, dibattiti televisivi tenuti da specialisti dolenti e impegnati a dispensare previsioni di sciagure imminenti, aver constatato ieri una ripresa della Borsa di Milano, e non solo, ha prodotto in tutti, tassisti e tranvieri compresi, una sorta di euforia. All'improvviso il popolo ha scoperto un tipo inedito di felicità, la felicità azionaria, scrive Vittorio Feltri. Il segno più accanto a Unicredit o Eni ha suscitato una ventata di ottimismo, chissà, forse ne veniamo fuori. Gente di norma imbronciata dinanzi ai banconi del supermercato, dove i prezzi degli alimentari fanno passare l'appetito a sorriso soddisfatto, osservando i grafici Dow Jones e MIB, roba da matti, ma bisogna capire, la paura era ed è ancora tanta, paura della disoccupazione, paura che lo stipendio e la pensione possano valere ancora di meno, una paura a un dato momento trasformata in certezza di dover affrontare davvero situazioni simili a quelle riversate nella nostra memoria dai racconti bellici di genitori e nonni. Insomma, questo scenario viene raccontato da Vittorio Feltri. Insomma, dice: se i provvedimenti assunti dai governi di mezzo mondo sono buoni, non tarderemo a verificarlo, già oggi capiremo di più. Coraggio, e mettiamo in frigorifero una bottiglia di spumante, può aiutare. Eh sì, può aiutare. La Carfagna passa dalle lucciole alle donne statiste. Questo è il titolo di apertura. Mara Carfagna, ministro per le pari opportunità, un libro della ministra. E poi Fausto Carioti invece scrive una cosa relativa a Sarkozy. Ma che Sarkozy? È la Bruni a guidare l'Eliseo. Crederci è stato bello, ma l'idea che a guidare la Francia ci fosse un conservatore liberale che si comporta come tale, non come il sommo sacerdote del compromesso tipo Jacques Chirac, per capirsi, era troppo rivoluzionaria per essere vera. Le ultime illusioni sono appena tramontate. Nicolas Sarkozy, lo strano gollista atlantista che si era fatto eleggere all'Eliseo promettendo la rupture in taglio netto con i suoi scusate che trovo la pagina, imbalsamati predecessori, non c'è più. L'uomo che nel maggio del 2007 il filosofo André Glucksmann votò e paragonò a un grande lupo cattivo per la sua capacità di fregarsi del politicamente corretto e dividere l'opinione pubblica, sembra essersi accucciato felice. Ora, con la sua decisione di non estradare in Italia la terrorista rossa Marina Petrella, condannata all'ergastolo per l'omicidio del commissario Sebastiano Vinci, per l'attentato al vicequestore Nicola Simone e per il sequestro del giudice Giusso, Sarkozy è riuscito a farsi applaudire persino dai nostalgici della Stella a cinque punte, dove non poterono l'ideologia e l'establishment francese, è riuscita l'alcova. Il pover'uomo ormai pare agire sotto dettatura di sua moglie Carla Bruni, della sorella di costei Valeria, della madre delle due, insomma la suocera di Sarkozy, Marisa Borini Bruni Tedeschi. Questa è l'idea che viene fuori dalla questo servizio sul caso di del quotidiano Libero. Il quotidiano L'Unità invece, il quotidiano Unità Borsa in ripresa, lo Stato salva il mercato, è molto netto da questo punto di vista. E poi Furio Colombo, ex direttore dell'Unità, scrive un articolo molto duro, riprendendo la notizia del Nobel all'anti-Bush, Paul Krugman, scrive premio contro il disastro. Alla vigilia delle più importanti elezioni presidenziali americane, il premio Nobel per l'economia è stato assegnato all'economista che con forza, competenza e passione è stato il grande antagonista di George W. Bush e del rovinoso governo pubblico-privato costituito da Bush, che si è preso il compito di liquidare anche i più urgenti interventi dello Stato aumentando a dismisura la povertà, e da Dick Cheney, che è il titolare di un vasto sistema di potere e di profitto privato che dalla Casa Bianca si estende fino all'Iraq. Queste le durissime parole di Furio Colombo a proposito della politica di Bush e a proposito del premio dato a Krugman. Vi è anche un Gaza muore, l'allarme di Tony Blair, la striscia è ormai al collasso, Israele deve intervenire. E poi una vignetta cattivissima di Staino: pensi anche tu, come dice Berlusconi, che Bush entrerà nella storia? Purtroppo per noi ci sono già tutte e due. Questo dice il vignettista Staino sul quotidiano L'Unità. Il manifesto invece, affidato a un altro vignettista, a Vauro, la prima pagina, addirittura la copertina colorata, come voi sapete da un po' di tempo, e poi a volte si rialzano, e il titolo è La notte delle borse viventi, e c'è un disegno di Vauro, appunto di questi manager che erano un po' morti viventi, che si rivivono, le borse esultano, i governi europei intervengono contro il grande crack e la borsa si impenna, centinaia di miliardi di euro per salvare i bancarottieri da Berlino, Londra, Parigi e Madrid. Il governo italiano vara garanzie a condizioni di mercato, pensando pure di guadagnarci qualcosa. I drogati della finanza tirano un respiro di sollievo e sperano di salvare la pelle. All'orizzonte la più grande recessione dagli anni 30. Ecco, questo è l'altro aspetto importante, che sarà evitata dai geni degli affari. Questa è l'ipotesi un po' sarcastica del manifesto, ma di crisi, come voi sapete, si parlerà ancora a Radio 24, perché stamattina già ve l'ho detto. Oggi l'ospite della prima parte di Dietro la Notizia, la trasmissione diretta da Gianfranco Fabi, direttore di Radio 24, sarà proprio Carlo Bastasin, che, come vi ho citato all'inizio, oggi editorialista del Sole 24 Ore, e oggi in particolare firma un editoriale, La rivincita realistica della politica. Si parlerà appunto di crisi finanziaria. Ora, il riformista, che rimbalzo, si apre l'ombrello di Banca Italia, la strana coppia è Mario Draghi e Giulio Tremonti. Domenica notte, dopo aver ritrovato l'unità europea della misura anticrisi, George Soros ha centrato il punto. Quello che è certo è che la gente cercava leadership e l'ha trovata. Poco dopo l'apertura euforica della borsa australiana, nel cuore della notte europea, ha dato il là alla staffetta globale, dall'Asia all'Europa, agli Stati Uniti. E poi altre, Franco De Benedetti per esempio dice, replicando a un articolo che era comparso sul Riformista, non è colpa di Santoro se ormai il vero coincide con il bello. E infine c'è un esorcismi, il cavaliere e il fattore sfiga, dalle due torri a Wall Street, così il premier supera la sfortuna globale che lo perseguita. Il ragionamento è che nel 2001 c'è l'attentato alle Torri Gemelle, quando c'è il governo Berlusconi più duraturo, e poi nel 2008, appena arriva il nuovo governo Berlusconi, c'è il crollo di Wall Street, e dice questo servizio non firmato, insomma, che il cavaliere ha un po' di sfortuna. Nonostante la stravittoria elettorale, solo il Messaggero, il piano europeo a favolare le borse, Berlusconi da Bush, la crisi non colpirà l'economia reale. Adesso io ho finito il mio tempo, mi dicono, vi saluto e ancora una volta vi dico che ci diamo appuntamento noi domattina, e invece chi vuole sentire parlare ancora di crisi finanziaria può seguire dalle 8.30 alle 9 Dietro la Notizia, dove ci sarà Carlo Bastasin, editorialista del Sole 24 Ore. A domani.